la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 in questa diretta di venerdì assolatissimo a Milano. Si muore di caldo, ma il fiatone non è per quello. Fiatone purtroppo, scusatemi, perché ho fatto di corsa le scale, colpa mia. Allora, chiamate anche oggi all'800 24 0024 per dirci se vi è sbollita la rabbia o che cosa diavolo state pensando rispetto agli arresti del Mose. Perché questo non è, dopo l'Expo, il Mose, l'Aquila anni fa e così via, non è un tema sul quale si può, per così dire, secondo me, dal mio punto di vista, far passare in cavalleria la notizia, i fatti, dicendo vabbè, ma è un fatto di ieri, oggi c'è un'altra novità quotidiana. No. Qui siamo in presenza di fenomeni di una tale gravità, di una tale penetrazione all'interno della macchina pubblica, della pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, gli uomini dei partiti, gli uomini della finanza, gli uomini delle imprese, su opere di miliardi che dovevano costare alcune centinaia di milioni, 800 milioni l'abbiamo detto ieri, sono all'80% realizzate nel Mose con 5 miliardi e 2, quindi per fare il 100% si arriva a 7 miliardi, da 800 milioni, 7 miliardi, noi non possiamo dire va bene, ce ne siamo occupati ieri, perché la riflessione, quella dell'informazione, quella della politica, deve tenere conto di tutto ciò che nella testa dei cittadini, nel loro cuore, nelle loro pance, si agita in maniera veemente tutte le volte che vicende di questo tipo si ripropongono con una costanza troppo sistematica per far dire sono le mele marce e sono qualche disonesto, cosa volete fare? Certo che l'uomo non sarà mai perfetto, io per primo sono imperfettista, però telefonateci perché sono curioso di capire se davvero pensate che sarà l'avvento del rispettabilissimo dottor Raffaele Cantone alla testa di una autorità contro la corruzione, per il momento non ancora costituita, non ancora con poteri affidati, quindi lui che risolve tutto, come per molti versi sembra pensare, si debba pensare da ciò che viene promesso dalla politica. Io ve l'ho spiegato ieri, non ci credo, credo che si debbano assumere misure molto radicali, nel senso che la parte pubblica, pubblica amministrazione e politica, deve stare fuori dai meccanismi di aggiudicazione delle gare, fuori, però sono curioso di sapere come la pensate. Intanto oggi abbiamo chiamato un altro ospite che ha scritto delle cose su queste vicende in questi anni del Nord, perché c'è anche un problema specifico che riguarda il Nord, sempre pronto in questi anni a vestire la camicia pubblica di una moralità, di una efficienza eccetera eccetera rispetto al resto d'Italia, e che poi puntualmente invece questo premio alla virtù non lo merita in queste vicende. Allora, l'ospite di oggi si è molto spesso, con libri nella sua attività giornalistica, occupato degli aspetti del Nord che non funzionava, e non è un giudizio verso tutti i cittadini e le imprese del Nord, ovviamente, no? Noi non abbiamo pregiudizi, però guardate quello che succede. E ha anche scritto e fatto scrivere sul giornale che dirige delle cose che a me sono piaciute parecchio, perché stamattina se andate sul sito del giornale che dirige, che si chiama L'Inchiesta col K, quindi www.linchiesta.it, trovate un articolo di apertura che, con tutto il rispetto per il dottor Cantone, dice esattamente quello che ho detto io adesso all'inizio. Marco Alfieri, il direttore dell'Inchiesta, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buongiorno a voi, ciao Oscar. Allora, mi spieghi dal tuo punto di vista l'Expo, il Mose? Io lo so perché ti leggo da anni che non sei sorpreso, però spieghiamo a chi è in ascolto per quali elementi non essere amaramente sorpresi dal tuo punto di vista. Ma allora, noi secondo me abbiamo, un po' l'hai già detto tu, abbiamo due strade davanti, cioè o pensare, convincerci che diciamo il tasso medio di corruttibilità, di basso livello di etica degli italiani sia fisiologicamente più basso di quello degli altri paesi, potrebbe essere una spiegazione a cui io non credo, ma voglio dire, potrebbe essere un automatismo che si racconta, e allora ci possiamo dire, come in parte ha detto, come dire, anche Matteo Renzi, cioè ci sono i ladri, ci sono i corrotti, ci sono i corruttori, quindi noi scontiamo in grandi opere dove girano tanti soldi pubblici questa tara e ce la portiamo dietro come una dannazione. Siccome io però non credo che sia questa la vera motivazione, probabilmente ogni volta che scoppia uno scandalo su una grande opera o su semplici appalti dovremmo fare un ragionamento diverso, e cioè è quello di chiederci perché ogni volta che si ripresenta un grande appalto pubblico scoppia, si va verso una deroga che porta poi a meccanismi che si incistano e quindi poi corruzione, indagini eccetera eccetera, oppure volano stecche, ci sono situazioni appunto di mala politica e di corruzione. Allora io credo che bisogna ragionare sulle regole, e cioè vi dico due cose flash, poi magari ci torniamo. Uno, c'è troppa intermediazione pubblica nelle gare di appalto, cioè il pubblico fa troppe cose, il perimetro è troppo esteso, troppo gonfio, troppo denso, e quindi quando c'è troppo sistema pubblico ci sono discrezionalità, ci sono barocchismi, ci sono filiere burocratiche, ed è il brodo di cultura perfetto per faccendieri che si inseriscono, malversazioni eccetera eccetera eccetera. Cioè quello che vediamo, che le inchieste, poi vedremo, sono tutti garantisti, squadernano da qualche anno a questa parte. E sono meccanismi che si ripetono, perché è stato così sull'Expo, è così sul MOSE, e probabilmente scopriremo che anche sugli appalti della sanità c'è molto, come si dice, magna magna. Allora, o noi affrontiamo il tema a questo livello, cioè un tema di regole, un tema di sanzioni, e non invece buttandola sempre sul moralismo, cioè immaginando che l'italiano medio è più, come dire, corrotto di altri colleghi di altri paesi, o altrimenti credo che ogni volta ci stupiremo dell'ennesima inchiesta e dopo qualche giorno di cancan mediatico sui giornali si volta pagina e si ricomincia come se niente fosse. Allora, alcuni messaggi ai nostri ascoltatori. Marco Tizzi ci dice: l'unico modo per non far rubare un memo dello Stato è non dargli i soldi. Su questo potrei essere d'accordo, però poi lo Stato c'è e deve andare avanti. Io sono per rivederne il perimetro, le competenze, però anche questa è un po' una soluzione utopica, Marco. Cosa diversa è le regole. Anche secondo me le regole sono... Quando quello che non mi è piaciuto di Renzi ieri è stata la frase del Presidente del Consiglio in cui ha detto: le regole ci sono, poi ci sono i ladri, come ricordava adesso Marco Alfieri. Secondo me le regole sono concepite, quelle pubbliche, cioè la somma del codice degli appalti, di tutte le norme amministrative, delle conferenze di servizio, del sovrapporsi della magistratura civile, penale, amministrativa, adesso magari anche di quella dell'autorità anticorruzione. Ecco, è proprio come sono congegnate le regole che poi alla fine rendono impossibile fare un'opera, quasi qualunque, a prescindere dall'onere. Tanto più importante, maggiore diventa l'ostacolo a farlo in tempi certi e quindi con costi certi, e per chi avanza la finanza, per ritorni anche certi della finanza che avanzi, che anticipi, scusate. E a quel punto, per questo congegno di regole, saltano, come ha detto Marco adesso, i veicoli speciali, cioè le eccezioni alle regole. Fu così per la protezione civile, è stato, e così pare dalle indagini per il consorzio Venezia Nuova, e così per l'Expo, perché alle deroghe dell'Expo si è arrivati quando si era troppo in ritardo per via delle norme pubbliche. E a quel punto succede quello che ha detto Marco. Secondo me la parte di norme da cambiare è quella sulle regole che impediscono di fare le cose in tempi certi e con trasparenza. Quindi io direi: le gare non le aggiudica il pubblico. Io direi anche che non deve gestire l'avanzamento dell'opera, perché se gestisce il pubblico l'avanzamento dell'opera, man mano che arrivano le somme, più importanti sono le somme, più il pubblico, cioè la somma di manager pubblico e partito di riferimento o assessore di riferimento, sindaco di riferimento, quello che volete, a far provvista a quel punto con le imprese. Secondo me bisogna cambiare queste due cose prima di pensare ai controllori. Ma la domanda che faccio a Marco è anche un'altra, politica, perché entrambe le vicende, Milano, a Milano poi c'era il sistema San Giovanni di Penati, che tutti abbiamo dimenticato, era il capo della segreteria di Bersani, adesso c'è Orsoni, il sindaco nei confronti del quale il più del PD dice non è uno dei nostri, e poi però la dichiarazione ufficiale è stata, se accertato, sarà come per Genovese, cioè fuori. Però queste vicende, Marco, fanno capire che a nord non è che c'è il male assoluto da una parte e c'è la purezza dall'altra. Perché, secondo te? Assolutamente sì, hai ragione, cioè le visioni, diciamo, manichee sono totalmente sbagliate. Allora, adesso, ovviamente io ne do una responsabilità politica, poi al netto delle responsabilità personali, eventualmente penali, che sarà la magistratura a accertare. Diciamo, dopo Tangentopoli, quello che è successo sostanzialmente al nord, che si ripropone a Milano su Expo dalle carte che sembrerebbe emergere anche dal MOSE, era un sistema in qualche modo consociativo, cioè la Tangentopoli, diciamo, originaria del 92-93, scoperchiata in quegli anni, era che, come dire, ogni partito in qualche modo faceva per sé. Dopo Tangentopoli si è raffinato il meccanismo, l'ha raccontato anche bene ieri Carlo Nordio, l'aggiunto della procura di Venezia, e cioè c'era un sistema consociativo per cui c'era un potere in qualche modo politico egemone, no? Lombardia in qualche modo poteva stare sotto il cappello, parlo dal punto di vista politico, del sistema Formigoni, in Veneto diciamo il sistema Galan, dico sempre dal punto di vista della copertura politica. E poi c'era un cospicuo diritto di tribuna all'opposizione che si incarnava diciamo nell'ex filiera PC, PDS, DS, con tutta la batteria diciamo così economica delle cooperative rosse, così uso un termine in modo tale che ci capiamo. E quindi, come dire, ed era un sistema congegnato per cui tutti fossero in qualche modo nel sistema e il meccanismo degli spifferi o delle fronde fosse molto molto molto limitato. E questo sistema è prosperato negli anni, ha funzionato, diciamo così, aveva una sua logica. E oggi questo meccanismo si è rotto, allora vai a vedere poi le carte, ripeto, sempre al netto poi di quel che stabiliranno le inchieste, perché siamo solo ovviamente a indagini o arresti preliminari, insomma, quindi bisognerà vedere. Però è anche da dire che gli elementi sembrano, per così dire, di una certa pesantezza. Assolutamente, però c'è questo ritorno, cioè, come dire, c'è un pezzo di potere egemone, diciamo così, che noi potremmo indicare nel Lombardo-Veneto, diciamo così, più legato tendenzialmente al centrodestra, e poi una cospicua partecipazione da parte di un pezzo di filiera ex PC, no? Ma lo vedi anche nei nomi che tornano, cioè del primo Greganti che salta fuori, poi al netto di alcune millanterie che ci saranno state sicuramente sull'Expo, e il ruolo di questo Marchese, di questo consigliere regionale del PD, che era non a caso era il responsabile della Fondazione Rinascita, cioè la fondazione che gestiva il patrimonio immobiliare dell'ex PC PDS-DS in territorio veneziano. Quindi ci sono dei fili rouge che ritornano. E appunto rispondono, parli con i magistrati, te lo raccontano, rispondono a questo meccanismo consociativo che si era creato, che per tanti anni ha prosperato proprio perché nessuno era fuori dai giochi, no? E quindi tutti avevano interesse a che non ci fossero spifferi. Questo meccanismo, ovviamente, come dicevi tu, più si riduce il perimetro pubblico, più si fa chiarezza nelle regole, che devono essere poche e devono avere delle sanzioni certe, perché noi rispondiamo agli scandali facendo che cosa? Con un meccanismo di formalismo, cioè facciamo un'altra regola, costruiamo un'altra authority, cioè livelli burocratici che si sovrappongono ed è peggio. Dico solo una chiosa su Cantone, persona rispettabilissima, stimabilissima, ma è assurdo che oggi si crea una struttura che deve controllare gli appalti, l'anticorruzione sull'Expo, quando gli appalti Expo l'80% sono stati assegnati. Esatto. Doveva essere una cosa fatta 5 anni fa, sono 4 anni fa, non adesso. Esattamente della tua stessa opinione. Ancora un paio di messaggi, poi abbiamo 60 secondi sulle strade, in particolare uno, eccolo qua. Finché gli italiani continueranno a votare partiti tradizionali, ci dice il nostro ascoltatore, sta a significare che gli va bene così. Continuate pure a far passare M5 Stelle, Movimento 5 Stelle, come il male assoluto. No, io non l'ho mai fatto passare come il male assoluto, né mi permetto di dire, l'indignazione di chi ha votato 5 Stelle, anche le parole di Grillo in questi giorni, quando ha detto sì, non vinciamo noi, ma intanto arrestano voi, e sono giuste, sono sacrosante, cioè per me non è che esiste l'indignazione con la tessera di partito, esiste l'assoluta intollerabilità di una situazione di questo tipo, però devo dire la verità, anche il rifiuto di una finta sanzione ipocrita, perché questa, la soluzione che mi sembra, e mi dispiace, il governo intenda intraprendere, non vede l'enorme problema di cui in questi giorni stiamo parlando. Vede la foglia di fico da metterci sopra, la foglia di fico non lo può risolvere un problema che si ripropone così sistematicamente. Strade e poi torniamo a parlare del MOSE. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare del MOSE, a parlare di Expo, a parlare di questa piaga dei tangenti, appalti, finanziamenti illeciti e non dichiarati ai partiti, a uomini di partito su pingue opere pubbliche, in un'Italia che poi ha ridotto gli investimenti pubblici. Alcuni altri messaggi ai nostri ascoltatori. Ce n'era uno da Treviso che avevo visto. Ecco qua, Sandro da Treviso. Amaramente penso a tutti quegli amici piccoli imprenditori che si sono tolti la vita perché non avevano i soldi per pagare le, tra virgolette, tasse improprie a gente come Galan. Roberto, questo da Parma, hanno ragione i 5 Stelle, ci vuole un redditometro speciale per tutti i politici e altri dirigenti subito. E invece qui il problema è quello, non riesco a capire la sigla che ha usato, per i piccoli imprenditori, per verificargli come hanno speso 500.000 euro. Grazie a Roberto. Molte battute su Galan, Galan grande, eccetera eccetera. C'è chi propende per la via manette più forti, come Alberto da Milano, che dice che bisogna prevedere il carcere per corruzione, triplicare la pena se è un dipendente della pubblica amministrazione o un politico. Fabrizio di Mestre ci fa riflettere, secondo me, lo ringrazio, su un altro aspetto della vicenda Mose. Dice Fabrizio: se lasci un Mazzacurati lì per 30 anni, alla fine il consorzio Venezia Nuova diventa suo, altro che regole. E questa è anche un'osservazione, secondo me, molto saggia su come avviene l'appropriazione indebita di funzioni e poi naturalmente di denaro. Allora, è con noi il direttore dell'inchiesta, Marco Alfieri, lo avete sentito su Nord, sulla cooperazione di pezzi di politica diversa, sempre contrapposta da 20 anni, e che poi trova il modo di cooperare su queste vicende purtroppo dolorose. Sentiamo un po' di telefonate e poi torniamo con lui. Iniziamo con Valerio, che ci chiama dalla provincia di... non me l'hanno scritto. Valerio, da dove ci chiami? Buongiorno, chiamo dalla provincia di Roma. Perfetto, dici. Ecco, no, molte cose già l'ha dette lei, cioè in pratica il codice dell'appalti è fatto per essere raggirato, cioè in pratica tutte le gare possono essere pilotate. Le porto un esempio che stavo verificando in questi giorni, quando c'è stata tutta la polemica di Grillo. Lei che fa di professione, se posso chiederglielo? Sì, sì, io sono pensionato di un comune, sì. E quindi diciamo stavo all'ufficio. Vicino all'ufficio gare, ecco. Certo, certo, quindi ha una esperienza accumulata. Allora, ha fatto questa verifica, sì. E praticamente che è successo al comune di Mirandola, che mi sembra che Beppe Grillo si è lamentato che non ha preso voti. In pratica tutte le gare post terremoto sono state fatte tutte quante a trattativa negoziata, cioè questo praticamente cosa vuol dire? Che il comune ha fatto la privata con le ditte. Certo. Senza gare. Ecco come funziona. Oppure va fatto una trattativa, diciamo, ristretta, per cui solo le ditte invitate. Certamente, quindi ecco. Questo è un problema. Valerio, io ti devo dire che nella mia... il codice degli appalti che non funziona. Sì, sì, questo non c'è dubbio. Nella mia esperienza mi è capitato anche di conoscere imprenditori di un certo peso che partecipano a gare che invece ci sono e come, che mi spiegavano come... è possibile in realtà capire qual è l'offerta da battere al rialzo o al ribasso, e io lì non riuscivo a capire. Devo dire, esistono dei modi anche per raggirare le gare, ecco, questo riguarda più naturalmente comportamenti impropri delle imprese, però esistono questi modi. Paolo da Latina, breve, che pensi? Sì, no, mi sente? Sì, prego, dica. Niente, io in merito sempre al fatto che ogni volta che succedono queste cose, l'Expo, adesso il Monte, l'Italia si meraviglia sempre, quando praticamente, cioè, anche mio figlio che ha 7 anni, per dire, non è che, cioè, se c'è stata 30 Mani Pulite 20 anni fa, non è che ci possiamo meravigliare. No, però non ci dobbiamo rassegnare, Paolo. Non ci dobbiamo rassegnare, infatti io sono uno dei primi forse che non si rassegna, infatti ho votato bene alle ultime elezioni. Grillo in questo senso aveva ragione su tutta la linea, poi lasciamo per di modi che magari ci sono tante persone in Italia che vogliono essere fregate con delle persone. Quindi per te ci vuole la spallata, altrimenti cioè, questi non capiscono. No, capisco. Grillo che dice va visto questo paese sotto un punto di vista psichiatrico, ha ragione, ha perfettamente ragione. Ecco, va bene. Allora, questa è una tesi molto forte, la tesi tua nei messaggi di oggi è fortissima. Sentiamo Daniele da Venezia. Daniele. Sì, come veneziano, cara, sei sorpreso, sì, oppure no? Ma no, non sono sorpreso per niente, però non è che sia solo il tema Venezia qua, certo, il tema, certo. Il sistema Italia c'è da cambiare completamente. Mi sono chiesto dopo queste notizie, ma come mai non sono venute fuori prima delle elezioni? Sarebbero stati gli stessi risultati che ci sono stati per Renzi prima. E sai cosa facciamo, Daniele? La tua domanda la giriamo tale quale a Marco Alfieri, al direttore dell'inchiesta che è con noi, perché qui il problema è che se gli arresti vengono fatti prima delle elezioni c'è chi protesta, se vengono fatti dopo c'è chi protesta uguale. Che pensi, Marco? Io sono poco dietrologico, nel senso che certamente c'è molto protagonismo nella magistratura, c'è stata e ci sarà sempre meccanismo orologeria, però io penso che, perché c'è sull'Expo, in realtà anche fosse uscita prima questa vicenda del Mose, in realtà non avrebbe intaccato, secondo me, il risultato elettorale. Cioè, oggi, come 20 anni fa, in cui, diciamo così, la cesura di Tangentopoli ha favorito a torto o a ragione, non entro adesso nel merito, diciamo così, quelle che apparivano essere le forze nuove, cioè Berlusconi e la Lega, oggi le forze nuove sono percepite essere Matteo Renzi e Beppe Grillo. Peraltro, se andiamo proprio a vedere, se vogliamo usare anche un po' di malizia, queste inchieste, tra virgolette, fanno politicamente gioco a Matteo Renzi, perché stanno in qualche modo colpendo, ripeto, a torto o a ragione, quella parte, diciamo così, di ex filiera PCPDS-DS che non è quella di Matteo Renzi, che Matteo Renzi internamente combatte. Ora, io non è che voglio traslare inchieste giudiziarie sulla politica, però se vogliamo darne anche, mi sono chiesto come domanda, una valutazione, diciamo, di ricaduta politica, io penso che oggi, poi magari tra sei mesi non sarebbe così, oggi Matteo Renzi e Beppe Grillo sono su diversi versanti percepiti come il nuovo, e quindi credo che queste inchieste in qualche modo possano favorire politicamente la traiettoria politica di Matteo Renzi e dall'altra parte certamente anche di Beppe Grillo. Io devo dire, oggi è una raffica di messaggi da parte di voi in ascolto con grande, larga prevalenza dell'opinione grillina, ghigliottina, cose eccetera, inutile dire di no, sì, voi volete cambiare le regole, ma il problema è che per cambiare le regole bisogna che la politica capisca, per farla riflettere fino in fondo bisogna che sbatta la testa. Fino a questo momento non ho ricevuto un messaggio, questo mi colpisce, non solo uno, che vede da parte di qualche ascoltatore in Renzi quello che può fare la differenza su questo tema. Sentiamo Roberto da Caserta. Roberto, che pensi? Sì, salve, buonasera. No, io premetto che non sono per la pena di morte, sicuramente, perché penso che la pena debba tendere alla rieducazione in ogni caso. Sì. Però penso che come per alcuni reati, tipo per esempio l'attentato al Presidente della Repubblica e punito con l'ergastolo, se si volesse davvero fare sul serio, si potrebbe inasprire queste pene, per esempio ipotizzando delle pene severissime, non probabilmente proprio l'ergastolo, come se venisse considerato un attentato contro lo Stato, ovvero contro il popolo italiano, contro noi tutti, e quindi se si pensasse solo in questi termini, inasprendo notevolmente le pene, probabilmente tu credi all'effetto dissuasivo? Io credo nell'effetto dissuasivo, perché è quello unico che le pene oggi a quello tendono, altrimenti dovremmo dire che Ho capito, però poi sai, il nostro sistema tra prescrizioni, cose, sappiamo come funziona, qua restano in carcere gli immigrati e i poveracci che non si possono permettere gli avvocati, questi possono permettersi avvocati, tali per cui non lo so che pene, che pensi dell'inasprimento delle pene, Marco? Questo è un tema molto, molto interessante, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, bastian contrario, però io temo che se noi, ed è anche la mia diversità di vedute rispetto a una posizione come quella di Beppe Grillo, e cioè Beppe Grillo fa l'errore uguale contrario di buttarla sul moralismo, cioè si pensa che il problema sia raddrizzare le gambe storte delle persone, dopodiché è ovvio che c'è un problema di etica e di affari gigantesche in Italia, quindi non è che voglio smarcarla e far finta che non ci sia, però temo che se noi l'affrontiamo solo su quel livello e non riduciamo il brodo di cultura tentatore dentro il quale si muovono questi personaggi, non risolviamo un problema, cioè ne mandiamo in carcere 5 e tra 2 anni siamo punta a capo, che è la storia recente dell'Italia, no? Cioè Tangentopoli, poi la Tangentopoli oggi diffusa, e ritorno al mio ragionamento iniziale, cioè se siamo convinti, io non lo sono, che il problema sia, diciamo così, la fibra morale degli italiani, allora è la strada, diciamo, che arriva fino alla ghigliottina. Dici il problema è un altro. Allora, noi ci diamo appuntamento a lunedì, perché lunedì continueremo ancora a rompere le scatole su questo. Quindi potete chiamare ancora e darci messaggi. Intanto continuate su Radio 24, appuntamento con me lunedì.